Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E anche di Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, di Gianmarco Ferronato e Roberta Frisani, che si alterneranno in regia oggi, 17.08. Il pomeriggio è andato via senza troppe sorprese, perché il Napoli ha fatto valere come al solito la regola del 3, 9 partite su 11 con 3 o più gol segnati dalla squadra di Sarri, che però non è ancora la migliore, non è ancora il miglior attacco, perché dopo le prime 11 il miglior attacco resta quello della Juventus con 33 gol fatti, 32 quelli del Napoli, che però ha 31 punti, sembrano scioglilingua, ne ha 3 in più della Juventus e della Lazio, che ha seppellito sotto 5 gol il Benevento, 0 punti, 11 partite, 11 sconfitte, 4 gol fatti, 29 subiti, se vi può interessare. Ma dietro è successo invece qualcosa con le vittorie di Crotone e Spal, hanno perso Sassuolo e Genoa, vediamo domani il Verona contro l'Inter. Insomma, pomeriggio che è filato via senza grosse sorprese, e del resto c'era da immaginarselo. E allora apriamo il processo, dopo aver visto ieri sera Milan Juventus, alla situazione del Milan. 800 24 00 24, questo è il numero per prenotarvi di intervenire. Resteremo in diretta fino alle 19, oppure 349 238 6666, per i vostri sms e whatsapp, oppure ancora andate sui nostri social, su Twitter. Vi abbiamo chiesto qual è la ricetta che deve seguire adesso il Milan per uscire dalla crisi, e quindi aspettiamo le vostre soluzioni. Cominciamo adesso anche a leggere i vostri messaggi. C'è Carlo Genta, ciao, ciao Carlo. Ragazzi, ciao a tutti. Perché di crisi si può parlare, di quella del Milan, 5 sconfitte in 11 partite, 6 punti in meno dell'anno scorso, la zona Champions League che domani può trovarsi a 12 lunghezze. Sì, Milan credo sia spacciato una corsa alla Champions League, ma anche perché l'abbiamo detto molte volte, quelle davanti corrono troppo veloce, quindi se accumuli un ritardo così pesante è difficile pensare di colmarlo. La partita con il Chievo ha detto praticamente niente, troppo facile per essere vera. Quella contro la Juventus ha detto invece la verità. La Juventus è tornata, per usare l'espressione cara Garcia, al centro del villaggio con Higuain capo dei sacerdoti, mettiamola così, in bianco-nero. E il Milan fa quello che può, cioè pochissimo. Il fatto è che il Milan non è una squadra, a differenza dell'Inter, che fa poco turnover, sì, ma ha un impianto, e di tutte le altre. Però io vi faccio sentire a te, Carlo, poi stiamo aspettando Franco Ordine, 800 24 00 24. Ci sono due passaggi ieri sera di Montella dopo la partita che fanno molto discutere, secondo me c'è ragione per discutere. E il primo è questo: quando Montella ha detto che il Milan ieri ha fatto partita pari alla Juventus e poi tutto è stato deciso semplicemente dalle prodezze di Higuain. Montella: ma io credo che oggi sia stata una partita giocata alla pari, nettamente alla pari, dove poteva essere sbloccata una parte dall'altra. Abbiamo tirato più in porta anche da dentro l'area, che di solito mi dicono che sì, che tiriamo più in porta dagli avversari, ma da lontano oggi abbiamo fatto il doppio dei tiri dentro l'area della Juventus. Allora, il Milan ha giocato alla pari della Juventus, secondo me la risposta è no. Cioè, no, prestazione dignitosa, ma questo, se vogliamo, aumenta il limite del Milan oggi. Sì, aumenta il limite del Milan oggi, ma non si può dire che il Milan ha giocato alla pari della Juventus semplicemente perché è andato sotto dopo 27 minuti e lì è rimasto, quindi non ha giocato alla pari. Vogliamo trovare una differenza, l'ho sottolineato venerdì e rimango sempre di più della stessa opinione. Il Napoli e Mertens, la Juventus e Higuain, l'Inter e Icardi, la Lazio a Immobile, la Roma a Dzeko e il Milan a chi? E Milan potrebbe avere Kalinic, che ieri però ha tirato sulla traversa, complice anche Buffon, la palla buona. Sì, io devo dire che Montella, che fa quella lettura, qualche dubbio lo fa venire. Scrive un amico: bloccato Suso, si ferma tutta l'imprevedibilità del Milan, oppure ancora il vero obiettivo del Milan è l'Europa League. Poi facciamo due conti però anche su che cosa significa cercare di vincere l'Europa League. La cura del Milan si chiama Carlo Ancelotti. Poi è o no la cura del Milan mandare via Montella, cioè è Montella responsabile di quello che sta succedendo al Milan? Ti leggo alcuni messaggi che sono arrivati. Via al più presto, sì, ma non c'è il sostituto, però se lo si lascia in panchina passa il messaggio che l'obiettivo è la salvezza, a meno che non lo sia davvero, questo credo sia un paradosso. Vabbè. Poi ancora subito esonerarlo senza pensarci, ancora dipende dallo spogliatoio se con lui no, se gli danno contro sì, anche perché alternative non ce ne sono. Insomma, un plebiscito di tifosi del Milan che vogliono allontanare Montella e vedono in lui il responsabile. No, non è l'unico responsabile naturalmente, come sempre accade in questi casi, però ha una grande responsabilità che è questa, di non aver dato una identità qualunque alla squadra. Non si sa con che modulo gioca il Milan, lo cambia 100 volte, ha un sacco di giocatori nuovi che sono chiaramente disorientati. Dovrebbe scegliere un modulo, quello che più gli piace, e fare come sta facendo Spalletti. Che turnover fa Spalletti? Praticamente zero, giocano sempre gli stessi. Adesso lasciamo stare che l'Inter non è Coppa, il Milan fino adesso insomma ha affrontato avversari che in Europa League che non mi sembrano certo irresistibili, quindi al di là dei viaggi non mi sembrano impegni agonistici pazzeschi. Quindi io direi, fossi in Montella, sceglierei un modulo, quello che piace a me, 11 interpreti, quelli che decido io, e poi vediamo, dopo 5-6 partite vediamo. Sì, il problema è che non si... il problema vero è che non si confermano mai. Anche quelli che battezza, ad esempio Kalinic ieri è stato tra i peggiori, Bigli è stato il peggiore, che si è in difficoltà, Paolo da Milano 800 24 00 24. No, Paolo è caduto. Allora vi faccio sentire l'altra frase che fa discutere di Montella, quella sul mercato e sui giocatori veri, quelli da 100 milioni di euro che a Milano non arrivano. Ti rispondo subito. No, ma i giocatori che un centravanti. No, io preferisco questa squadra qua perché sono forti, perché cresceranno, ma i giocatori da 100 milioni vogliono giocare la Champions League, vogliono giocare la Champions League per vincerla. Non vengono a giocare i giocatori che sono top player, vogliono giocare Champions League con le squadre forti che la possono vincere. Allora, io credo che questa frase Montella non si possa permettere di dirla dopo un mercato condiviso in cui lui ha avuto un ruolo, la società ha speso 230 milioni di euro e adesso dice giocatori buoni, top player, qui non ce ne sono. Beh, mi sembra abbastanza la realtà, no? Bonucci dovrebbe essere top player di questa squadra, sappiamo, inutile ripercorrere la vicenda di Bonucci, ma è chiaro che se il tuo top player è un difensore centrale, benissimo, lo stai messo. Ripeto, vuoi che ti rifaccio l'elenco dei centravanti, sì, però, degli uomini però, di gol delle altre? Però dire oggi fondamentalmente che il mercato del Milan non è stato un mercato di altissimo livello, io credo sia una cosa che sa tanto di scaricare la colpa su qualcun altro, e non è la prima puntura che Montella fa, ad esempio, nei confronti della società, che non ha usato parole leggerissime nelle scorse settimane nel confronto del suo lavoro. Però io credo che sia anche il segno di una spaccatura pericolosissima. Gianni da Firenze, vediamo se Gianni risponde. Gianni? Sì, buonasera. Vai. Buonasera. Senta, io vorrei parlare di questa cosa, di questo mal di denti che abbiamo, che è questa sosta per la nazionale, no? Io la vedo così. Perché siamo tutti lanciati, un campionato anche abbastanza bello, no? Equilibrato. Però ora c'è questa cosa, queste soste qui, ecco, non... A parte che c'è fra una settimana, c'è fra una settimana, Gianni, adesso ti stai portando avanti col lavoro. Un po' la procedura, non so, farle d'estate queste cose, perché a noi è un po' una cosa... E l'abbiamo detto molte volte. Invece, perdonami Gianni, io non vedo l'ora di vedere Svezia-Italia e Italia-Svezia. Cioè, non è che questa sosta è proprio banalissima. No, c'è lo spareggio per andare al mondiale. Abbastanza interessante. Ne abbiamo viste di peggio, di soste per amichevoli inutili. È chiaro che è un discorso annoso e molto lungo. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la vecchia ricetta Platini di collocare l'attività delle nazionali a fine stagione sarebbe quella vincente per mille ragioni, ma insomma non mi sembra oggi di stretta attualità l'argomento. No. No, Giacomo d'Alessandria, Giacomo. Sì, eccomi. Vai. Qua, buongiorno. No, due parole solo su Montella. Montella gli hanno dato una serie di giocatori e con questi giocatori deve giocare. Io non saprei quale altro modulo. Sono sempre quelli che vanno in campo. Se io ho 11 brocchi, ottengo risultati. Sì, ma non sono brocchi. Però, Giacomo, perdonami, 11 brocchi. Cioè, secondo me era un'esagerazione dire quest'estate, e qualcuno l'ha detto, l'ha scritto, Milan è competitivo già per lo scudetto, però da qui a essere nella condizione in cui il Milan è oggi ce ne passa, o no? Ma l'insieme non c'è nessuno di valore in quella squadra. Nessuno. Nessuno. Ma guarda, io non posso dire. Centrocampista della nazionale argentina non è nessuno. Bonucci è stato Romagnoli. Premiato settimana scorsa come miglior difensore, non è nessuno. In questo momento questo momento non va bene, può succedere a tutti i grandi giocatori, momento di crisi, e lui tenta di fare quello che può fare. E quindi non è un brocco. No, dico brocchi, forse la parola è un po' esagerata. E quindi non è nemmeno giusto dire che hai speso 230 milioni per fare un mercato, ma quelli buoni qui non ci sarebbero comunque venuti. Ma non li ha comprati l'allenatore, li ha comprati la società. Se la società compra un tornio che produce 100 pezzi all'ora, non c'è allenatore, non c'è tecnico che lo può far camminare a 110, 120, sì, 150 all'ora. Una macchina da quello... E lui ha quello che ha. Quindi il Milan oggi è una macchina da 16 punti in 11 partite. Sì, sai quante volte negli ultimi 10 anni è successo? Due volte. Sì, secondo me è più forte questo sì. Milan dell'anno scorso. Però ti dico, ti faccio l'esempio dell'Inter l'anno scorso. Sembravano tutti bidoni. Guarda l'Inter di quest'anno. Cioè non è esattamente così. È uno specchio abbastanza deformante quello che stiamo vedendo o che abbiamo visto l'anno scorso a proposito dell'Inter. Allora abbiamo il traffico, io ve lo ridò il numero, chiamate oggi, grande spazio questo processo sulla situazione del Milan, 800 24 00 24. Quella frase di Montella sul mercato sta facendo discutere, del resto era prevedibile, c'è chi lo paragona alle frasi di Sarri, ma la differenza è che Montella non regge la pressione, c'è chi dice che il problema è la mancanza di continuità di moduli giocatori, Walter scrive non c'è altra soluzione che cambiare allenatore, sperare in meglio, non lo so, traffico, torniamo, arriva Xavier Iacobelli, cerchiamo di recuperare Franco Ordine, poi ci sarà Demetrio Albertini, insomma, poi parleremo anche del Napoli, della Juve di ieri sera. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, 800 24 00 24, per le vostre chiamate, per prenotarvi, lo state facendo in tanti, per intervenire fino alle 19, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Continuiamo, aspettiamo anche Sarri ai microfoni di Mediaset Premium, poi parliamo un po' di questo duello scudetto tra Napoli e Juventus con possibile inserimento di Lazio e Inter. Saluto Xavier Iacobelli, ciao direttore. Ciao. Buonasera a voi. È un plebiscito contro Montella. Tu dove ti iscrivi? Stavo riguardando le dichiarazioni rilasciate da Vincenzo Montella il 16 luglio scorso a Guangzhou in Cina, in calcio alla campagna acquisti condotta dalla società. Attualmente considero Leonardo Bonucci un calciatore di livello internazionale, tecnicamente penso che insieme con Sergio Ramos sia il miglior centrale al mondo. È quasi un sogno poterlo allenare. La società sta facendo un lavoro straordinario, sono stati presi i calciatori per il presente e per il futuro. È un mercato capolavoro. Allora qui Montella si deve mettere d'accordo con se stessa, perché se poi alla fine di ottobre, in virtù della catena di sconfitte che ha incassato, cambiando continuamente formazione, non individuando e non dando una precisa identità tattica al Milan, dice che i top player al Milan non vengono, evidentemente ha cambiato idea. Ora, Flaiano diceva che soltanto le persone non intelligenti non cambiano idea. Evidentemente Montella è molto intelligente e ha cambiato idea. Sì, quello che aveva detto in luglio. Oppure è impegnato a difendere la sua posizione, il suo lavoro, in questa sorta di scaricabarile che si è aperto nel Milan e che è evidente. Anche Fassone non è stato perfetto dal punto di vista comunicativo, almeno questo è il mio parere, nelle scorse settimane, che però secondo me è doppiamente preoccupante. Perdonami se ti interrompo, ma che cosa doveva fare di più la società oltre a confermare la fiducia in un tecnico che in campionato perde una partita su due? Sì, io credo che doveva avere un po' più di pazienza dopo Marassi, nel non mettere pubblicamente alla berlina Montella e tutto il suo staff. Allena il Milan, non il Battelapersi. Ma secondo me, guarda direttore, c'è un vizio capitale in tutto questo, e il vizio capitale peggiore che possa succedere: Montella è stato confermato senza l'entusiasmo che dovresti avere. Cioè, un allenatore confermato sotto condizione, è un allenatore in libertà vigilata, non c'è quella non fiducia credo. Che si beh, insomma, a me io ho questa sensazione. Io cito sempre le dichiarazioni testuali, perché a quelle bisogna riferirsi. L'indomani della sconfitta all'Olimpico contro la Lazio, Marco Fassone venne al Corriere dello Sport Stadio, ospite del forum del nostro giornale, e disse testualmente che la capacità di Montella di gestire la squadra nel campionato più difficile che un allenatore potesse augurarsi, in quanto era in pieno svolgimento la transizione dalla vecchia proprietà alla nuova, era stata alle basi della decisione di confermarlo alla guida del Milan. Quindi non penso che Montella sia partito in campionato con una fiducia a tempo o a termine. La verità è che se un allenatore che dispone di questa squadra e dopo 11 partite a questa squadra non ha ancora dato una fisionomia precisa, continuando a cambiare gli interpreti del copione che manda in scena, credo che debba porsi delle domande. Questo è chiaro. Anche delle risposte. Ma quindi la ricetta qual è? Allargo anche a Franco Ordine, che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito. Ciao Franco. Come a voi, buon pomeriggio. Qual è la ricetta? Ma guarda, la ricetta secondo me è una sola, e cioè intanto secondo me trovo un clamoroso errore eventualmente cambiare l'allenatore, perché l'allenatore in questo momento significa ripartire poi dal zero un'altra volta e perdere i mesi che sono stati già perduti nel rincorrere una soluzione. E secondo, perché non credo che ci sia a disposizione qualcuno che con la bacchetta magica capace di trasformare quello che è una prospettiva di squadra in una squadra vera, fatta, compiuta e pronta. E quindi già questo è un gravissimo errore. Quello che poi deve fare assolutamente Montella è quello di risolvere ancora quei problemi che servono. Ma io ripeto ancora una volta, Montella ha davanti una squadra che è stata costruita in un certo modo e che è stata purtroppo giudicata al di sopra nettamente delle sue possibilità. Sì, ma da lui per primo. Quindi, l'obiettivo stagionale, certo. Ciccio, qual è a questo punto? L'obiettivo stagionale in questo momento, dopo questa falsa partenza, è tentare disperatamente di entrare in Europa League, se va bene. Mi sembra cioè, pochino, eh? Cioè 230 milioni, appunto, mi sembra pochino, eh? Aspetta, perché certo siamo, passiamo da un eccesso all'altro, Xavier Iacobelli. No, intanto saluto Franco Ordine. Sì. Ciao. Buonasera Franco. No, intanto non bisogna dimenticare come esista un altro modo per andare in Champions League, che è quello di vincere l'Europa League, che non è un obiettivo. Sì. Non è facilissimo, Xavier. Non è facilissimo, però intanto il Milan è in testa al girone. Questa è una constatazione. Sì, però, Xavier, però quando finirà la Champions, ci saranno quelli della Champions che passeranno in Europa League. Guarda, ve li dico. Allora, oggi ci sono in Europa League Arsenal, Lazio, Lione, Zenit, San Pietroburgo. Questi ci sono già. Se i gironi di Champions League fossero finiti oggi, il Milan erediterebbe l'Atletico Madrid o la Roma, o il Chelsea, volendo, da quel girone. Il Siviglia o Liverpool, in questo momento il Siviglia, il Napoli o lo Shakhtar, in questo momento il Napoli, ma speriamo tutti che sia lo Shakhtar, al 99,99% il Borussia Dortmund e magari il Porto o il Monaco. Sì, ma è auspicabile che a febbraio, quando ricomincerà l'Europa League, le condizioni del Milan non siano quelle attuali, perché altrimenti... Allora, sì, ma mi sembra alimentare un'illusione su una delusione, questo intendevo dire. Sì, d'accordo, però c'è un problema di fatto, e Franco ne ha fatto riferimento, e cioè il problema è che Montella deve decidere quale sia il suo Milan, perché se noi scorriamo le formazioni del Milan dall'inizio della stagione fra Europa League e campionato, fermi restando gli infortuni, però non ha mai schierato la stessa formazione per due volte di fila. Esatto. Vuol dire che fa l'opposto di quello che ha fatto Spalletti. Ha disegnato la sua squadra, ha scelto 11 interpreti, turnover col contagocce, giocano sempre gli stessi. Poi mi dici, non ha le coppe. Vabbè, non ha le coppe, d'accordo, risparmia qualche viaggio, ma gli avversari che ha incontrato fino al Milan in Coppa non sono di alto livello. Io credo che Montella dovrebbe fare un processo di semplificazione di questa squadra. Un modulo, 11 giocatori, 5 partite, poi vediamo. Ma io credo che abbia anche altri problemi. Franco. Scusa, anche questo è, come dire, un problema datato che nel frattempo è stato superato, perché è in gravissimo ritardo rispetto alle aspettative. Lui ha ormai battezzato il nuovo modulo, che è il 3-4-3 o 3-4-2-1, come lo vogliamo chiamare, e alcune scelte sono state fatte. Il problema è la qualità degli arrivi. Scusate, il miglior Bonaventura è nettamente meglio del Çalhanoğlu. Sì. Siamo d'accordo. Il Villa di queste settimane non ha assolutamente nessun tipo come dire, di competitività con il miglior Montolivo. Sì, però Biglia non è che l'hanno portato a Milano dando un colpo in testa a Montella a luglio facendogli violenza. No. Questo è il tema. Allora, io aspettate un attimo. Saluto Xavier Iacobelli che ringrazio. Grazie direttore. Ciao, direttore. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Perché poi abbiamo un paio di minuti, voglio chiudere con Franco Ordine. Io adesso uso un paradosso, ma le parole di ieri di Montella sul mercato a me hanno ricordato come tipologia di espressione quelle di Conte sui ristoranti da 10 a 100 euro fatte, non dico per farsi licenziare, ma insomma per tirarsi fuori dei sassolini dalle scarpe. Non lo so, Franco. Sì, allora può darsi che sia anche così, però obiettivamente la qualità adesso di tutti quelli che sono arrivati ieri, Zapata si è dimostrato nettamente meglio di Musacchio. Quindi allora oggi il Milan si regge ancora sulle colonne di cemento armato della passata stagione, che sono Donnarumma, Romagnoli, Bonaventura e Suso. Ma sì, anche perché conoscono meglio Montella conosce meglio loro, conoscono meglio l'ambiente, questo è quasi normale, Franco. Io piuttosto sottolineo la mancanza nel Milan di un giocatore che abbia una credibilità elevata in zona gol, uso un giro di parole, che la sbatta dentro, no? Quello poi, perché ieri sera la differenza tra Milan e Roma è stata scolpita sulla pietra dalla differenza tra Kalinic e Higuain. Sì, anche da qualcos'altro, Franco, sì. Ne abbiamo parlato prima, ridurre tutto credo ai due gol di Higuain, secondo me è esercizio riduttivo e che tra l'altro tradisce forse un errore nella diagnosi, e spesso l'errore della diagnosi ti porta a non dare la prognosi giusta. Franco, ti ringrazio. Ciao Ciccio, a presto. Ciao, a presto anche a voi. È sparito, grazie. Franco Ordine, allora stiamo aspettando Sarri, che credo però non passerà ai microfoni di Premium Sport. Adesso cercheremo di approfondire. 800 24 00 24, ci fermiamo per un minuto, poi arriva Demetrio Albertini, arriva anche Pierluigi Pardo. Dopo le 18 parliamo della rinascita di Higuain, vi facciamo sentire che cosa ha detto oggi Spalletti e poi commentiamo insieme anche l'alba di Sepang che ha tenuto aperto il moto mondiale. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua! Tutti convocati. Far frutta la natura di prima mano. Vi presenta. Tutti convocati. Bisognava fare una prova di forza, innanzitutto perché Juventus-Milan è sempre una partita che fa storia a sé per la tradizione delle due società, per la rivalità che c'è. San Siro ti impone sempre di fare grandi prestazioni, altrimenti non esci vivo. E stasera i ragazzi sono stati bravi a farla, c'è stato grande sacrificio e grande disponibilità nella fase difensiva. Abbiamo subito solo quel tiro di Kalinic, insomma volevano questa vittoria, e soprattutto dopo una buona prestazione. Temptation when you get the vibration won't do you no good, won't do you no good. Abbiamo creato almeno quanto loro, forse nel primo quarto d'ora potevamo anche sbloccarla noi la partita. Preparare queste partite anche per il singolo calciatore, spendi qualcosa di più o di diverso se non sei abituato a farle. Io credo che un pizzico abbia pagato anche questo. È stato un fenomeno Higuain nei due gol, perché oltre ad essere rapido ha trovato anche l'angolo in entrambi i casi, quindi complimenti. La distanza che c'è tra i tuoi difensori e Higuain non c'è stata mai fra i difensori della Juventus e Kalinic. Si guardano e gli lasciano comunque quel mezzo metro dove lui, lo sa, si sa che mezzo metro è fatale. Lo so, no, ora arrivederli, ma è veramente mezzo metro, questo è. Vince. È un campione, spiace averlo subito. Vabbè, insomma, per Montella la colpa è di Higuain, che è un campione. Avete sentito la voce, era quella di Giovanni Galli. Quel mezzo metro diceva un po' le pulci. Di chi è la colpa di quel mezzo metro? Secondo me il Milan difende semplicemente male, altrimenti non avrebbe preso 16 gol nelle prime 11. Allora, saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao Pierino. Ciao ragazzi. E Demetrio Albertini, ciao Demetrio. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Stiamo cercando di analizzare insieme il momento del Milan. Abbiamo fatto ascoltare prima le due frasi clou della serata, cioè Montella che dice il Milan ha giocato alla pari della Juve, affermazione che contestiamo con forza perché secondo noi non è così, ma soprattutto le parole di Montella sul mercato del Milan, quelli bravi da 100 milioni vanno altrove, non qui. E con questo, insomma, cancellando 230 milioni di investimenti sul mercato estivo condiviso della società. Chi vuole cominciare, Pier? Ma sì, il Milan non ha giocato alla pari con la Juve, questo è il punto di partenza. E la campagna acquisti probabilmente sarà stata anche un po' sopravvalutata, sarà anche colpa nostra, Sì, anche di Montella. Tra l'altro c'è un cielo stasera a Milano pazzesco, un tramonto incredibile, lo diciamo, tanti radio non si vede, ma è pazzesco. E probabilmente ci siamo fatti prendere tutti un po' dalla e questo quindi faccio un'autoaccusa. Ci siamo fatti tutti un po' prendere la mano dai colpi, dagli acquisti, poi vai a vedere le cifre spese per certi giocatori e probabilmente valgono più le cifre dei giocatori, con tutto il rispetto. Però che questo Milan sia nettamente al di sotto delle previsioni e secondo me di quello che è il suo margine, di quella che è la qualità, è indiscutibile. Cioè, Montella comunque deve secondo me continuare a lavorare se ne avrà la possibilità, ma deve anche rendersi conto che a questo momento le cose non stanno andando, e siccome poi l'allenatore è sempre quello che si prende i meriti o le critiche, c'è poco da discutere, cioè, non mi sembra una critica che non ha senso, no, Milan certo. ha delle confusioni tattiche, ha delle confusioni mentali, ha delle confusioni e basta, sì. Poche certezze. Demetrio, se tu fossi un dirigente del Milan oggi, sentendo e leggendo quelle parole lì, quelle sul mercato, anche perché leggeva prima Xavier Iacobelli, a luglio, fine luglio, Montella diceva cose ben diverse sul mercato del Milan. Tu come la prenderesti? Sì, però sinceramente è normale che sul mercato le cose che si sono dette qualche mese fa sono un po' diverse da quelle di oggi. Cioè, un allenatore sostiene la campagna acquisti della società, è stata una campagna acquisti importante. Abbiamo detto sempre che poi il mercato è una delle componenti per arrivare alla vittoria, non è sicuramente l'unica, tante volte l'entusiasmo è stato creato, ma poi dopo, il giorno dopo giorno, il lavoro è un'altra cosa, costruire un gruppo è la cosa più difficile, poi bisogna valutare anche i calciatori che sono arrivati, mettere la maglia del Milan non è come giocare all'Atalanta, per dirne una, o comunque in altre squadre, è sempre un po' più difficile, non puoi sbagliare, quindi giocatori validi, però magari sì, però non è secondo te uno scaricabarile parlare oggi come ha fatto ieri sera Montella. Però Demetrio, torno a ripetere l'esempio che ho fatto prima, è quello dell'Inter dell'anno scorso, che sembravano tutti brocchi, bolliti, bidoni, rotti, no, eccetera. Adesso al Milan sembra tutti scarsi, ma semplicemente se vai nella Juventus e vieni dall'Atalanta, vieni inserito in un contesto. Vabbè, l'Inter ha cambiato allenatore, esatto, visto che poi giriamo intorno a Montella. Esatto, è arrivato. Io ho parlato, ripeto, di gruppo, Spalletti, capito? Quindi sì. Io ho parlato di gruppo, quindi oggi non ci sono certezze. Anche Bonucci, che alla fine dell'anno scorso aveva delle certezze e quindi tutto il suo valore usciva, e oggi ha delle incertezze e escono i difetti piuttosto che i pregi, no? Sto parlando di un giocatore importante. Biglia uguale, è incredibile, ragazzi, è incredibile l'involuzione che sta avendo questo ragazzo. Poi, per carità, aveva avuto un affaticamento muscolare, quindi probabilmente non era al meglio, però non è la prima volta che lo vediamo veramente arrancare ed essere proprio un parente lontanissimo del giocatore che abbiamo ammirato in questi anni alla Lazio. E questa cosa qui, alla fine, l'allenatore è quello che è la sintesi tecnica. Se la squadra fa overperforma, come direbbe Barisoni con un gergo da borsa, l'allenatore è bravo e si becca gli applausi. Se la squadra fa meno di quello che sembra essere la qualità complessiva, l'allenatore si becca i fischi, c'è poco da fare. Poi sicuramente c'è stata questa discussione tattica infinita su giocare a 3, giocare a 4 che non ha aiutato, ci sono alcuni giocatori sicuramente in ritardo di condizione, però anche qui, voglio dire, c'è stato un preparatore che è stato mandato via. Cioè, Ti segnalo che il Milan continua regolarmente a correre meno dell'avversaria. Io tengo d'occhio tutte le partite, cioè, il dato continua regolarmente a correre meno, ma il problema non è quello. Le squadre di Montella corrono meno per definizione, quindi non era nemmeno quello il problema nel momento del licenziamento. Allora leggo qualche messaggio. Steve, anzi leggo questo: è inutile girare intorno alla questione, sono finiti Gullit e Rijkaard e Ivan Basten, con questi giocatori anche Montella sarebbe un fenomeno. Allora io vi segnalo a Demetrio Albertini, a Luigi Pardo, a Carlo, a voi a casa, che la Lazio, che in questo momento è giustamente seconda in classifica insieme alla Juventus, aspettando l'Inter di domani sera, ha il sesto monte ingaggi che è la metà di quello del Milan, e sul mercato quest'estate ha mandato via Biglia, Öte e Keita, quindi insomma tre giocatori che erano importanti, ed è la nona come spese di tutta la Serie A. Ce ne sono otto, Milan compreso, che hanno speso di più, perché altrimenti noi continuiamo a ragionare che se non hai fuori classe non vinci. Quando tu vedi 22 milioni per Çalhanoğlu, 18 milioni per Ricardo Rodriguez, stiamo parlando di giocatori che non sono da buttare via. Però io, ecco, questo lo dico, ma lo dico come critica a noi stessi, no? Magari un po' di enfasi che c'è stata sulla campagna acquisti del Milan è stata mediatica, e quindi dobbiamo metterci, secondo me, noi tra virgolette sul banco degli imputati, nel senso che c'è stata una capacità del Milan che voleva dare dei messaggi molto forti, di comprare tanto, di spendere, di dare il senso che stava nascendo un nuovo corso clamorosamente importante, e noi gli siamo andati dietro. Però insomma è oggettivo che il Milan ha fatto delle cose, non è che adesso ed è oggettivo che non le sta facendo oggi in campo. Proprio perché si è speso tanto e si è speso con tanti giocatori, il Milan ha dato un segnale. Io ho sempre detto fin dall'inizio che hanno, chiamiamolo, stati molto bravi i dirigenti a far percepire anche i nuovi acquisti, ai tifosi, a tutti, quello che poteva essere, o comunque quale poteva essere il cambio. Nel giorno dopo giorno, più giocatori cambi, più è difficile. Allora, questa è una valutazione tecnica che è stata fatta, e quindi quando cambi tanti giocatori, anche forti, perché stiamo parlando di giocatori, di buoni giocatori, cioè assolutamente di grandi giocatori che hanno già fatto, ma quando cambi c'è un cambiamento. Io qualche squadra l'ho cambiata, non tante, ma l'ho cambiato. Quando vai, entri in uno spogliatoio differente, un modo di allenamento differente, poi il giocatore nel momento di difficoltà è un po', chiamiamolo, paraculo, capito? Alla fine sbaglia più l'altro che guardare quello che fai tu. Invece se sei in un gruppo, che il gruppo tira da una parte, la tua ricetta non è uguale a quella, devi adeguarti tu al gruppo, capito? Spogliatoio l'hai vissuto. Se il tuo allenatore a un certo punto avesse detto: ragazzi, quelli buoni qui non ci vengono perché vogliono giocare e vincere la Champions, Sarei incazzato. Domani, quando lo rivedi. Va bene, perché dopo non diventi propositivo, quello sì, però dopo ci troviamo, perché alla fine non scarica barili, no? Però credo sinceramente che le difficoltà ci sono, la valutazione che la società deve fare, perché poi è un amico Vincenzo, quindi non voglio dire niente contro Vincenzo, perché per me è anche un buon allenatore. La valutazione della società in questo momento va fatta al di là dei risultati, perché i risultati oggi hanno perso tanti, no? E quindi devono fare quello, vedendolo allenare tutti i giorni, credendo, se devono credere al lavoro che si sta facendo, sperando che poi arriveranno anche i risultati, perché la classifica poi ci si abbassa sempre di più. Oggi è una fiducia al buio. Ho detto questo, voi giocatori siete anche un po', oltre che paraculi, anche un po' bastardi, quando sentite che l'allenatore non è solidissimo, perché la società non lo rende solidissimo, la colpa è sempre di quello lì, e quindi l'Inter, torno al paragone dell'Inter. Non è che il Milan ieri non abbia giocato a perdere. È molto più forte. Cioè, voi avete detto all'inizio che non è giocata alla pari della Juventus, ma io ho visto il Milan peggio di quello che ho visto ieri. Secondo me il Milan ieri ha giocato una buona partita. Il cambio veramente l'ha fatto qualche giocatore, Higuain perché ha fatto gol, ma lì davanti, che tutte le volte che la Juventus superava metà campo sembrava pericolosa, mentre il Milan, pur avendo creato, doveva andare con una manovra un po' più lenta, un po' più articolata. E lì è una questione di qualità di giocatori, poi alla fine. Ci aggiungo Chiellini dietro, che ha fatto una grandissima partita. Sì. Aggiungiamo magari qualcosa sugli esterni, però questo è anche la conferma di un limite strutturale. Grazie Demetrio. Ciao Demetrio. Grazie a voi. Ciao. Grazie ciao, Demetrio Albertini. Ciao. Facciamo velocissimo. Però scusami. Sì, scusa, cioè è vero che la differenza la fanno i giocatori, ma i giocatori sono allenati da un allenatore. Io pure sono amico di Montella e penso che lui sicuramente sia di fronte alla sfida più difficile della sua carriera, perché non sarebbe stato facile per nessuno trovare una squadra con così tanta pressione e così tanti nuovi giocatori, molto pompati dalla stampa, molto pompati dalla società, sì, cioè e da Montella tipo di, e da Montella stesso, perché Jacobelli ci ha letto le dichiarazioni, no, perché sennò sembra che è colpa degli UFO. Montella, luglio del mercato, diceva cose completamente diverse. Non poteva dire con la società che spingeva ovviamente per fare la campagna acquisti, per riportare entusiasmo, e che aveva speso 200 milioni di euro, non è che Montella poteva dire, ma sono... Il tema è che non può dirlo nemmeno oggi, non è tanto cosa non poteva dire a luglio, Pier, il tema è che non può dirlo nemmeno oggi, ma ce l'ha spiegato Demetrio Albertini. Io non so come i giocatori del Milan abbiano colto. Allora, aspetta perché siamo in ritardo sul traffico. C'è anche Alessandro da Milano, lo facciamo però dopo il traffico. Arriva anche Fabio Parisi. Cioè, il tema è quello. Voglio sapere anche da voi la ricetta. 800-24-0024. Torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. Allora, eccoci, andiamo rapidi. Alessandro da Milano, intanto saluto Fabio Parisi. Ciao Fabio. Fabio? Sì. Eccolo lì. Sì, adesso lo... sì, eccolo, sentiamo. Allora, Alessandro da Milano, vai. Buonasera, innanzitutto un saluto affettuoso a Gino Bacci che questa mattina ci ha lasciato. Sì, lo ricordiamo, 81 anni, uno dei grandi del giornalismo sportivo italiano, l'ho conosciuto personalmente, persona splendida, lo dico, insomma, quindi questa è una domenica un po' più triste. Vai Alessandro. Allora, una considerazione riguardo la partita di ieri, che penso che sia stata la migliore della stagione per quanto riguarda la Juventus, e anzi sono convinto che il secondo centrale difensivo al fianco di Chiellini, una volta recuperato Ouedes, il posto se lo giocheranno lui e Rugani, che ieri finalmente ha fatto una partita, tra virgolette, cattiva. Sì, ha fatto una partita da quello che ci si può aspettare da uno come Rugani. E abbiamo visto anche un importante salvataggio sulla linea. È vero, la Juve ieri ha fatto una delle migliori partite. Io contesto il fatto che il Milan possa accontentarsi di dire che ha giocato alla pari. Fabio Parisi, ciao. Ciao, ciao Gio, buonasera. Tu sei sorpreso o no della situazione del Milan? Sorpreso sì, fino a un certo punto, nel senso che è normale che c'era un grande entusiasmo, un grande interesse dietro il Milan dopo questa campagna acquisti, però da 27 anni di calcio e da un pochino di esperienza so che non è che pronti via le cose si mettono ad andare a 200 all'ora, ci voleva un pochino di tempo, è chiaro che difficoltà ne avevo previste, francamente non come in questo momento. Ma ha ragione Montella quando dice che quelli da 100 milioni qui non vengono, e però nel sottointeso c'è una delegittimazione della campagna che lui stesso aveva avallato. No, non è vero che quelli da 100 milioni non vengono, perché comunque è il Milan, ci sono giocatori, parlo per esempio per Riccardo Rodriguez, che sono venuti al Milan indipendentemente da quello. Rodriguez era un giocatore che lo volevano mezza Europa e aveva giocato già la Champions League e altre situazioni, quindi non è neanche vero quello. Ma ragazzi, ma l'ingaggio di Donnarumma è da top player, anche, è da quello, di Bonucci, top. Anche Bonucci. Quello di Bonucci. Bonucci, manco a parlarne, Bigley è un giocatore, non parlo dell'ingaggio, dico Bonucci e Bigley sono due giocatori veramente da top club, Bonucci lo voleva Guardiola un anno fa, penso che anche quest'anno non gli avrebbe fatto schifo, cioè, insomma, io sono da, ripeto, le attenuanti, per me sono attenuanti generiche, cioè è ovvio che il Milan ha cambiato tanto e quando cambi tanto è giusto concedere un pochino più di tempo. Il lavoro di Montella è complicato, la pressione è altissima, i cambiamenti tanti, però adesso non si può neanche buttare via tutta questa squadra, che sì, lo voleva la Roma, ma certo, è un mistero. No, sì, un giocatore sì, probabilmente anche lo stesso Montella sta cercando di capire qual è il modo migliore per utilizzarlo, che sì, se continuare a farlo giocare in un centrocampo a due dove magari si esprime meno, o riportarlo all'inizio dell'anno, non dimentichiamoci che Garcia aveva fatto delle partite egregie nel Milan, giocando a 3 a centrocampo. Praticamente il Milan sta facendo un precampionato alla fine di ottobre. Sperimentazione alla fine di ottobre. Non è che sta facendo degli esperimenti adesso, si è trovato una brutta situazione da gestire e sta cercando di lavorare per trovare di uscirne una soluzione migliore. È chiaro che, sai, il Milan, per le caratteristiche che ha, insomma, ci sono giocatori che sono costati dai 20 ai 40 milioni di euro che non stanno giocando. Sì, che non possono fare 16 punti. Non sono quello che diceva prima un amico ascoltatore, il materiale è questo ed è un materiale che 16 punti sono l'esatta fotografia. Io però voglio essere brutale, anche perché manca un minuto al GR. Voglio chiedere a Fabio Parisi, poi ci riaggiorniamo anche dopo il GR con Pierluigi Pardo e con tutti voi. Cioè, quanto tempo resta a Montella, Sassuolo-Milan, poi c'è la sosta, poi Napoli-Milan, via via, Milan-Toro, Benevento-Milan, Milan-Bologna, Verona-Milan, Milan-Atalanta e Fiorentina-Milan. Quanto tempo resta a Montella, Fabio? Il tempo secondo me resta a Montella. È chiaro che la fiducia della società in questo momento c'è, è stata confermata. È chiaro che deve essere lui adesso in grado di trovare il bandolo della matassa, di capire e di mettere la squadra in condizioni di potersi esprimere e trovare anche un pochino di fortuna, perché non dimentichiamoci che ieri all'ultimo minuto, se Buffon fa uno dei suoi miracoli, che pochi forse hanno visto, ma che è un miracolo di Buffon, probabilmente se fa gol Kalin siamo qua a parlare di un'altra partita. E quindi ci vuole anche un pizzico di fortuna, però adesso in questo momento chi deve mettere qualcosa in più sul tavolo secondo me è Montella, trovare delle soluzioni sia a livello di motivazione che tattiche, che inventarsi qualcosa per dare una sterzata a questa squadra che ha la qualità per essere meglio di quello che è oggi. Vincere un paio di partite potrebbe veramente ripartire, decollare. Tu dici, io ho qualche dubbio, ma ci aggiorniamo. Saluto Fabio Parisi. Ciao Fabio. È stato un piacere. Alla prossima. Ciao Fabio. Abbiamo il GR. Pierluigi Pardo ovviamente resta con noi. Poi allarghiamo anche il discorso a Juventus e Napoli. Una cosa in 5 secondi. 70 minuti sotto nel punteggio. È una sola vera palla gol, importantissima, quella di Kalinic. E per questo contestiamo. Secondo me è poco. Cioè, abbiamo il GR, Pier. Abbiamo il GR, siamo già lunghissimi, ma tanto ripartiamo, 800 24 00 24. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. El ritmo del pipita se siente sempre más. Chocamos mamacita, come on and shake your ass. El ritmo del pipita se siente sempre más. Chocamos mamacita, come on and shake your ass. Ecco, ecco il ritmo del pipita. Occhia di Bala, palla in mezzo per Higuaín. 100 volte pipita in Serie A. 100 volte pipita in Serie A. Dybala col velo, Higuaín, la carica nei 101 per Higuaín, 2-0 Juve. Sono lo stesso giocatore da quando sono iniziato. Io non ascolto né le critiche né il momento buono, l'ho detto sempre. È un po' una risposta ai quei troppi detrattori, no? Niente, non rispondo mai. Sono sempre, ci provo a aiutare la squadra, a quella che mi ha dato fiducia sempre, ai tifosi, alla famiglia. Questo è per tutti quelli che sempre hanno creduto in me, non per quelli che sono nel momento buoni solo. Quando uno sta bene, Higuaín ora sta bene fisicamente, uno si sente meglio, quindi corre più, ha il sorriso. Come anche noi che non facciamo più sport, se stiamo bene e non siamo appesantiti non ci addormentiamo. Poi Gonzalo è un giocatore straordinario, che ha una qualità tecnica fuori dal comune, e stasera ha giocato una partita tecnica di altissimo livello. Però non è che si deve fermare stasera, deve alzare l'asticella, soprattutto in Europa. Allora, abbiamo sentito il riassunto della nottata di Gonzalo Higuaín. C'è Luigi Pardo che è qui con noi fino alle 18.30, 800 24 00 24. C'è Carlo Genta, c'è anche Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore. Ciao direttore. Sei? Adesso lo recuperiamo. Paolo De Paola oggi ha firmato sulla prima pagina di Tutto Sport un editoriale che condivido da cima a fondo. Si intitola La dura legge del leader e sostanzialmente risponde a Higuaín dicendo: Higuaín è un leader, è un grande campione, è un fuoriclasse, si pigli le critiche così come adesso si prenda gli applausi. Direttore, se ci sei. Batti il colpo. Sono, eccoci. No, perché questa storia che non si può criticare Higuaín quando gioca male, io la trovo Higuaín e tutti gli altri, perché sono un po' tutti così, i grandi campioni, un po' tutti suscettibili, la trovo qualcosa di surreale. Ma perché non si può? No, non lo so, io l'hai sentito Higuaín. Direttore? No, ma dunque, intendiamoci su una cosa, che magari certi giocatori come Higuaín forse devono trovare delle motivazioni, devono trovare dei nemici, devono trovare un qualche cosa per esaltarsi. Quindi ben vengano a volte, diciamo, queste critiche che loro fanno, però poi diciamo la critica giornalistica è confortata anche dalla critica tecnica che gli fa lo stesso allenatore. Cioè è lo stesso Allegri allora che in qualche modo denuncia alcuni deficit del giocatore, quali l'incostanza e per esempio di non alzare l'asticella anche in Europa. Quindi, ma questo è, come dire, il giornalista fotografa una situazione, il tecnico cerca il rendimento migliore da parte del giocatore. Higuaín mi sembra una persona intelligente, quindi credo che certe cose servano soprattutto per caricarlo. Forse ci sono delle parole di troppo che non hanno senso con la realtà perché non trovano conforto nella realtà. Io ribadisco, il dovere di un giornalista è criticare quando, diciamo, c'è da criticare, senza nessuna malafede, senza nessun retrogusto o qualche cosa che è rimasto un pochettino nella mente oltre che nella penna, e allo stesso tempo esaltare con lo stesso distacco. È quello che si fa, certo, ma per qualunque campione. Però intendiamoci bene, ragazzi, però chiariamo un punto. Higuaín è sempre stato un falso. Come? Non so di che stiamo parlando, nel senso che Higuaín, falso problema, Piero. L'abbiamo detto mille volte. Sono d'accordo con te, Higuaín ovviamente è un grande giocatore, è ovvio. Adesso sistemiamo il collegamento, direttore. Ci sono? Sì, vai Pier, sì. È De Paola che fa fatica a sentirti, noi ti sentiamo bene. Ok, tutto a posto. Allora, Higuaín è un grande giocatore e come tutti i grandi giocatori quando le cose non vanno bene si alza subito, ma giustamente, il livello di critica. Ma ripeto, sono d'accordo col direttore in maniera assolutamente costruttiva e senza nessuna malafede. Higuaín è un grandissimo giocatore, è uno dei due giocatori assieme a Ibra che ha segnato più di 100 gol in due dei campionati top che ci sono in giro per l'Europa. Ibra, Italia e Francia, Higuaín, Italia e Spagna. Se discutiamo Higuaín, tout court, vale tutto. Però no, ma è chiaro. Nei momenti di difficoltà che ci sono stati nell'avvio di questa stagione, oppure il secondo elemento, secondo me, importante che riguarda Higuaín è che qualche volta nelle grandi partite, nelle grandi occasioni, Higuaín non è stato decisivo, e questo si può dire, ma mica perché uno gli vuole male, è cronaca, perché è la verità. Ma certo, sì, è cronaca anche che tra i cinque attaccanti delle cinque squadre che stanno dominando la Serie A, Higuaín oggi insieme a Dzeko è quello che ha inciso meno. Io oggi mi sono divertito a fare due numeri che giro al direttore Paolo De Paola. Immobile in gol 8 partite su 11, Mertens 7 partite su 11 giocate, Icardi 6 su 10, vedremo domani sera, Higuaín e Dzeko 5 volte su 11. Allora, poi va bene ed è giusto elogiarti quando segni due gol a San Siro, però secondo me ha ragione Allegri quando dice che Higuaín deve essere, così come Dybala, ancora più un fattore anche in questa stagione, direttore. Ma Higuaín è tornato, assolutamente d'accordo. Poi io dico, a certi livelli, quando tu sei uno dei migliori attaccanti al mondo, ecco, forse questo è un altro aspetto che va sottolineato. Se la critica non investe la completezza del giocatore, cioè se io dico oggi hai giocato male, la tua prestazione è stata insufficiente, non dico che in assoluto non sei un campione o non sei un fuoriclasse, sto dicendo soltanto oggi non sei stato sui tuoi standard. Quindi già è una critica diversa rispetto a fare una somma, è una critica, diciamo, generale sul campione. Però questa incostanza, 6 gol di Higuain, gli ultimi due appunto li ha fatti con il Milan, 7 gol Zeko, fotografano evidentemente una situazione che è diversa per esempio rispetto alla scorsa stagione, ma anche nella scorsa stagione ci sono stati degli alti e bassi in Europa, perché è stato determinante in alcuni momenti Higuain, e poi per esempio è sparito dalla finale. Insomma, ci sono state delle cose che in qualche modo hanno inciso o positivamente o negativamente. Io ribadisco, questo fa parte un pochettino dei ruoli. Quando si è ai massimi livelli in una squadra e si guadagnano certe cifre, come dire, la selezione, la selettività dei giudizi deve essere, non dico cinica, ma di più, perché è in rapporto a tutto. Deve essere spietata proprio nel senso che, ribadisco, senza dire cose generali, ma limitandosi alla prestazione. Allora, siccome noi siamo spietati, Pierre... No, mi ricordo un'intervista, perché l'ho fatta io l'anno scorso al Golden Foot, a Buffon, che disse, non so se ve la ricordate, quella famosa frase che lui era molto arrabbiato per certi giudizi che c'erano stati dopo una partita della nazionale, lui te lo dice candidamente, che lui trova nelle critiche la linfa per andare avanti, e questa è una, ma questo riguarda tutti gli sportivi sono degli agonisti. Quindi hanno l'avversario, hanno lo stimolo che gli dà l'avversario, hanno lo stimolo che gli danno i tifosi avversari, hanno lo stimolo che gli danno i giornalisti quando li criticano, ed è una chiave fondamentale. Cioè, chi ha costruito una carriera sul rumore dei nemici. Appunto, ma è la cosa più sana del mondo. A me sembra che tecnicamente parlando Higuain sia tornato, nel senso che ieri io, al di là dei due gol, che non sono un dettaglio, ho visto un giocatore con una condizione pienamente recuperato, migliore rispetto a un mese fa, e questo non è un dettaglio. Allora, siamo già oltre il traffico, ma io mi prendo ancora un minuto, così faccio fare l'ultima considerazione a Paolo De Paola, che poi lasciamo ai doveri del suo giornale. Che è questa, io credo che si possa anche dire che forse Allegri non ha ancora trovato la sua Juventus, anche se giustamente ieri ha usato la carota dopo il bastone della partita con la Spal. Segnalo che in 3 delle 4 partite dopo la sconfitta con la Lazio, quindi Milan, Udinese e Sporting, ha giocato la Juventus vecchia senza mercato in campo. Credo che non possa essere questo il punto d'arrivo della Juve, direttore. No, bellissima domanda, anche perché nella partita di ieri Allegri ha ritrovato la concentrazione della squadra, e soltanto in due occasioni, se ci fate caso, due, e il gol mancato del Milan alla fine del primo tempo e l'azione solitaria a centrocampo di Chessie, ne è andato su tutte le furie. Perché? Perché poi i suoi strali erano rivolti a 3 giocatori in particolare: Pjanic in primis, Dybala e Cuadrado, perché quando Pjanic, Dybala e Cuadrado iniziano a fare il torellino in mezzo al campo, uno dei tre perde sicuramente il pallone, e quelle sono le situazioni che fanno più imbestialire Allegri. È su quello che a volte batte, non soltanto sulla fase difensiva, quindi dei singoli difensori, ma sulla fase difensiva della squadra, che appunto perde dei palloni pazzeschi a metà campo e incorre in rischi assurdi. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie Paolo De Paola. Ciao. Che domani leggeremo ancora su Tutto Sport. Traffico, siamo in ritardo, ci scusiamo, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma noi l'unica cosa in cui dobbiamo credere è la partita di mercoledì, in questo momento, senza dubbi e senza avere retropensieri a quella della domenica prossima. Il campionato è appena cominciato, ci sono 5-6 squadre in 2-3 punti, quindi è inutile parlare tanto. La squadra sta bene, oltre alla sensazione anche i numeri sono di buon livello. Eh sì, numeri del Napoli sono di buon livello. Questo era Maurizio Sarri oggi in conferenza stampa, non è passato dalla TV perché è ancora influenzato, questa è la spiegazione ufficiale. Carissimo Pierre, era ancora influenzato. Germano dalla provincia di Macerata. Germano, buonasera, salve. Vai. Volevo fare una considerazione sulla Juventus. Nelle ultime settimane tutte le critiche giornalistiche erano puntate verso la Juventus, che c'era un calo di rendimento, e poi esce una partita come quella di ieri a Milano e il risultato pieno. Ti dico, tutte le persone che hanno dato già per morta la Juventus, credo che i conti si faranno tra aprile e maggio. Io però non trovo nessuno che ha dato per morto la Juventus. Non so quanti siano. Conosci qualcuno che ha dato per morto la Juventus? Sicuro. Ma no, almeno a livello di stampa si cerca di stare un po' attenti, no? E di non dire cose che potrebbero essere usate. No, però insomma che ci sia qualche stato dopo Juve Lazio, dopo Atalanta Juve, qualche segnale di qualcuno magari non troppo entusiasta, ci sta, ma ripeto, rientra nella normale dialettica di Luigi. Il discorso facciamo su Higuain due minuti fa, cioè se Higuain gioca male e sembra un po' pesantito e sembra un po' sovrappeso, diciamo chiaramente come era un mesetto fa, è giusto dirlo, non è che c'è l'immunità soltanto perché è un grandissimo giocatore, quando poi si sblocca e fa partite come quella di ieri bisogna semplicemente battere le mani e sottolineare il fatto che è tornato a certi livelli. Allo stesso modo la Juve, le due cose coincidono secondo me, a me la Juve ieri ha fatto una grande impressione al netto delle difficoltà enormi del Milan in questo periodo. Io ieri mi è piaciuta veramente molto, continuo a pensare che non mollerà niente. Sì, il problema della Juve è che non molla niente, neanche abbiamo sentito neanche quella, esatto, che è sopra, esatto, che è il Napoli. Cioè io credo che nessuno ha dato per morto la Juventus. Come, anche la Juve credo abbia un punto più dell'anno scorso. Come fai a dare per morta la Juve? Basta guardare le classifiche rispetto all'anno scorso e ti renderai conto che al netto del fatto che poi la differenza con certe squadre è veramente clamorosa. Sì, ma non è che l'anno scorso gli altri fossero fortissimi, no, quelli appunto, sotto appunto. Intendo. Quindi, però se guardi le classifiche comparate ti rendi conto che la Juve è quella dell'anno scorso. La novità di quest'anno è che il Napoli ha preso una continuità e un passo incredibile, che la Lazio è cresciuta tantissimo. Occhio alla Roma, perché comunque le partite che sta vincendo la Roma non sono partite banali. Terzo 1-0 consecutivo. Guarda che è proprio una cosa veramente molto poco da Roma. Molto poco da Di Francesco. Aspetta che intanto saluto Gigi De Canio. Ciao mister, buonasera. Ciao mister. Buonasera a voi. Hai ragione Pierre, roba da poco da Roma e poco da Di Francesco. Posso portarvi tutti però sulle parole che abbiamo sentito prima di Sarri? Aggiungo anche qualcosa che non riusciamo a sentire ma che vi sintetizzo io, e cioè quelle davanti non riusciranno a correre sempre a questo livello, ma ho l'impressione che per vincere lo scudetto si debba andare sopra i 90. Ora, secondo me il Napoli è una squadra da sopra 90 in questo campionato, ma lo diciamo da quest'estate, e io credo che sia questo il valore aggiunto di questo inizio di campionato, non tanto che la Juventus deve essere data per spacciata. Segnalo che oggi il Napoli ha vinto una bella partita, ma ha sofferto. Il Sassuolo ha preso due volte il palo, è riuscito a pareggiare dopo il primo vantaggio del Napoli. L'anno scorso queste partite il Napoli non tutte le vinceva. De Canio. Penso proprio così, penso anch'io. Questo aspetto si è realizzato e si è visto molto, molto spesso sin dall'inizio. Partite come quella con l'Atalanta ed altre, insomma, che il Napoli ha avuto difficoltà all'inizio e poi è riuscito a vincere brillantemente. Quindi un risultato rotondo che dimostra la forza anche mentale di questa squadra quest'anno. Pier? Sì, per me il campionato finirà 97-95. Cioè, una partita di basket. No, ma non so per chi, ma insomma io non vedo nessuna variabile che possa far calare più di tanto le medie delle squadre che sono lì davanti. Cioè arriva a quinto qualcuno a 85 punti. Poi la differenza rispetto al passato, Pierluigi, è che magari 85 punti arrivi quinto. Sai, Pierluigi, la differenza rispetto al passato è che un inciampo con le medio-basse prima lo trovavi, adesso è molto difficile che una di queste ti fermi. Poi puoi soffrire, poi puoi vincere di misura, puoi vincere all'ultimo minuto sul rigore, però insomma non abbiamo ancora visto una medio piccola che ferma una grande a sorpresa. Guarda, ti faccio l'esempio della Roma che ha questa illusione ottica della partita in meno, per cui sembra un po' lontana. La Roma in realtà ha avuto solo il demerito di buttare via gli ultimi 20 minuti contro l'Inter e di perdere col Napoli. Già vincendo una di queste due partite stava pure lei lì. Quindi veramente, io lo dico, è un campionato divertentissimo secondo me, perché ci sono in questo momento 5 squadre sullo stesso livello. e al tempo stesso però è un campionato molto noioso perché ci sono delle partite, ecco, oggi Benevento-Lazio onestamente, sì, che dopo 20 minuti sono decise, amici, sì. Amici laziali che dicevano a questo punto andiamo a magnà, perché alla fine del primo tempo all'una e mezza, insomma sul 3-0, visto anche l'orario di pranzo, era già tutto chiaro. È ovvio, e così è stata Napoli-Benevento, e così è stata Benevento-Roma, cioè è veramente, ci sono troppe partite di questo tipo. De Canio, ha ragione Sarri quando dice, senza dolersene troppo, che questo Napoli è più concentrato sul campionato, i giocatori respirano più quella lotta lì piuttosto che la Champions? Sinceramente, insomma, non mi pare, io non... Credo che ogni calciatore così, in Europa veda il palcoscenico europeo come un palcoscenico importante dove imporsi e cercare di ottenere i risultati e di andare più avanti possibile. Quindi credo che anche nel rispetto di quelli che sono gli obiettivi societari, io credo che Napoli abbia la forza ed è giusto che sia indirizzata verso tutti e due gli obiettivi. Sì, però mister, parliamoci chiaro, cioè la missione del Napoli in Champions League è quella di fare strada, fare soldi e grosso modo divertirsi, perché non può essere quello, certo, l'obiettivo. Certo. Il bersaglio grosso è il campionato, quindi secondo me quello che dice Sarri è quasi banale. Poi deve andare più avanti possibile, quindi deve vincere più partite possibili e quindi cercare di superare la prima fase a gironi e sperando anche in un sorteggio benevolo andare più avanti possibile. Poi tutto ciò che verrà sarà buono. Pierre. È chiaro che il campionato è molto più adatto, molto più vicino ai suoi obiettivi, insomma. Vai, guarda, io penso che sia un grande equivoco questo, anche perché arrivare terzi porta in Europa League, e l'Europa League a febbraio è pure peggio. È pure peggio. Cioè, quindi veramente, c'è un turno in più, ci sono quattro partite in quattro questo settimane. Questo è un pensiero che secondo me va scacciato proprio al 100%, cioè è molto più logico puntare ma lo dice ovviamente la natura stessa dello sport, puntare alla qualificazione. Che il Napoli abbia un'energia quest'anno per come è partita, per quanto in città è sentita la rivalità con la Juve, con le altre, insomma il Napoli secondo me quest'anno sente di poter compiere un'impresa storica, mentre non sente di poter vincere la Champions, a meno poi che lo abbiamo, però ci sta questo tipo di ragionamento. Però credo davvero che sia sbagliato fare calcoli, fare troppi ragionamenti, anche perché, ti ripeto, il terzo posto in febbraio di chi gioca in Europa League è da sempre storicamente un mese complicatissimo. Praticamente quattro partite, hai quattro sfide su cinque, in cinque settimane hai quattro turni infrasettimanali, il doppio della Champions. Sì, e quindi finisce che non riposi e a quel punto fai anche fatica ad accettare serenamente un'eliminazione che può avere ripercussioni sotto altri aspetti. Roma, ti ricordi la Roma l'anno scorso? Sì, con Lione. Per esempio, è perfetto. Quella sì, è l'Europa League. Sì, è quella l'Europa League. Perché ne parlavamo prima anche a proposito del Milan. Attenzione a considerare poi l'Europa League come una porta accessibile per rientrare in Champions nella prossima stagione, se il campionato va come sta andando. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Io saluto Pierluigi Pardo, che ha vinto la schedina questa settimana. Quindi siamo 4-4, lo diciamo senza grossi problemi. Ci riaggiorniamo venerdì, ma a questo punto ci saranno conseguenze tecniche nel mio staff. Ci saranno conseguenze nel mio staff. In una settimana siamo andati da 4-1 a 4-4. Quindi salteranno delle teste a casa mia. Non ci sono più quei bei post con il poker tassi, con il Chris, col numero 3. Non ci sono. Torneranno. Saluto anche Gigi De Canio, ciao mister, grazie. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, torniamo. Allora, Real Madrid ha perso 2-1 contro il Girona, ripartiamo proprio dalla Spagna che ci regala sempre notizie, ma poi siccome siamo alla vigilia di una settimana di coppe con la sfida incrociata Italia-Inghilterra, vi raccontiamo qualcosa anche della Premier. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Convocati. Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Che succede al Real? Beh, cominciamo con un dato, no? È a 8 punti dal Barça e la storia dice che non ha mai vinto una Liga quando si è trovato a 8 punti di distanza dalla vetta. Questo, i numeri. I numeri lo condannano già impietosamente a ottobre. Esatto, i numeri lo condannano. In campo è un Real Madrid apatico, pigro, impreciso e infilato da un ottimo girona. Che ha preso anche due pali, il secondo gol in realtà è in fuorigioco, di poco ma è in fuorigioco, e che ha giocato molto bene, di queste squadre tipiche spagnole che vogliono giocare bene, ci provano, poi o gli va molto male, a volte gli va anche molto bene. Per cui adesso vediamo come reagisce. Oggi Zidane l'ho visto un po' perso, a un certo punto ha tolto i due terzini, così, insieme, per mettere Lucas Vázquez e Asensio, non gli è servito granché, Ronaldo in Liga combina poco, e sembra sempre più chiaro che questa è una squadra che pensa alla Champions, visto che l'ha vinta tre volte negli ultimi quattro anni. Sì, il problema qual è? Che nella Liga si annoia, che quindi non trova motivazioni, che Zidane fa errori. Sì, poca panchina. Meno stimoli, qualche errore di Zidane e poca panchina, perché l'anno scorso tu avevi Morata, 20 gol, James, che gioca nel Bayern anche a singhiozzo, però comunque gioca, più Pepe, che comunque è sempre un tipo affidabile, e quest'anno non ce li è più. Era impossibile tenere tutti contenti, però quest'anno la panchina dà meno di quello che dava l'anno scorso, prima cosa. Poi sì, magari qualche stimolo in meno è anche normale, perché prima c'era il fatto che il Madrid per tanti anni non ha vinto la Liga, quindi la Liga andava vinta prima o poi. Adesso l'hanno vinta l'anno scorso, secondo me, insomma, non hanno tutta questa voglia. Io oggi li ho visti un po' così, un po' svagati. Si vede, Ronaldo ha fatto un gol in sei partite di Liga, 40 tiri mi sembra sia arrivato. Non è, io l'ho visto giocare col Tottenham, ha fatto un partitone, per esempio. Quindi forse, insomma, deve essere difficile mantenere alto sempre il livello di tensione in Liga, e siccome qua poi le squadre giocano abbastanza bene, ci puoi lasciare le penne. Cioè, era il sindrome Milan dei tempi d'oro, quando il campionato quasi lo giocava con sufficienza, si annoiava, e poi il Milan, abbiamo detto, per mille anni consecutivi è una squadra da Champions, è una squadra che si esalta quando sente la musichetta, sindrome Milan. Sì, voi sai, ne hanno 23 negli ultimi 4 anni, cosa gli vuoi dire? mi chiedo se Zidane non rischi di bruciarsi le dita, perché poi magari un giorno Perez si sveglia e scopre che a 8 punti dal Barcellona a ottobre non si può stare. Sì, qua questo rischio c'è sempre, Zidane lo sa benissimo, però è stato molto bravo nella gestione del gruppo, soprattutto l'anno scorso, quest'anno il gruppo è un pochino più scarso e adesso sta faticando. Io oggi sinceramente appunto questi cambi non li ho capiti, in generale non c'è proprio una grande idea. Quindi sì, questo rischio c'è, perché con Perez non si sa mai. È chiaro che il fieno in cascina messo da Zidane è copioso, no? C'ha tante balle, però qua si bruciano in fretta. Ah, certo. Sicuramente così. Guarda, ti giro questo messaggio che è appena arrivato: se la Catalogna diventa indipendente prima della fine del campionato e vince il Barcellona, il titolo va alla seconda classificata, che magari puntano al secondo posto. Il Valencia lo vince. Allora, adesso c'è il Valencia, poi magari ci arriva il Real. No, qua insomma, io oggi sono adesso a Girona, a Montilivi, a questo stadio molto carino, piccolino. Ero venuto qua perché appunto era anche un viaggio storico del Madrid, teoricamente, il primo viaggio nella Catalogna indipendente. Poi in realtà è indipendente solo per Carles Puigdemont, perché poi indipendente non è. E l'atmosfera qui era spettacolare, grande ambiente, si sono divertiti da morire, politica quasi zero, e in compenso hanno avuto questa vittoria storica. Adesso cosa succederà sul piano politico lo vediamo piano piano, nel senso che adesso è il 21 dicembre, il giorno prima del classico, ci sono le elezioni del Parlamento catalano, e vediamo se arrestano i titolari del Parlamento dimesso, e in base a quello poi capiremo quanto come proseguirà questo processo, come vogliono farsela fuori, ma queste sono cose loro. Per chiudere, mi dici due cose su Zaza, che magari fra una settimana celebriamo come convocato in extremis d'avventura. Sì, lo deve convocare assolutamente. Lo merita, c'è un bel numero, no? Gli ultimi 8 tiri nello specchio di Zaza, 8 gol. un cecchino. No, fa gol da sei giornate consecutive, è in una forma strepitosa. Marcelino ha fatto un lavoro eccezionale sul Valencia, cosa che non era riuscita ad altri, e più o meno con gli stessi giocatori li ha trasformati. Zazza è in una grande forma, io ti dico, l'ho sempre detto, l'avrei visto benissimo a lottare, a sgomitare e a scalciare anche al Bernabeu il nefasto 2 settembre scorso. Il nostro CT la pensa diversamente, altre idee, va bene così. Adesso non chiamarlo mi sembra impossibile. È tra i preconvocati, però. Cioè, ha ricevuto la preconvocazione del Valencia, speriamo. Sì, no, perché però, 8 tiri, 8 gol è roba da metterlo sotto una campana di vetro, tirarlo fuori direttamente il 10 novembre a Stoccolma. Ma se quelli che vanno a giocare all'estero poi vengono sempre considerati un po' meno, non capisco perché, ma sì, questa è la realtà dei fatti. Cioè, io ti dico, ragazzi, uno così fa dei gol belli, è cattivo, c'ha voglia, è toccato, perché poi ci vuole anche la fortuna, il momento, la forma. In questo senso ce l'ha tutte, quindi ci giochiamo la vita. Io sinceramente non so perché non cioè lo farei, per me sarebbe, perché non chiamarlo, gireremo il messaggio, ah, Phil, direttamente al CT Ventura. Alla prossima, grazie Filippo. Ciao Filippo. A voi, grazie, ciao, grazie, ragazzi, a Filippo. Maria Ricci, viaggi in Europa, ci spostiamo in Inghilterra. Profitto del buco di Frances Hazard, forte teso sul primo palo, Eden Hazard. I think that around also there are a lot of bullshit. If I see the past, it happened the same also with the other managers. A lot of bullshit. And then I try to create problem between me, the club, the players, and if someone is happy to write this, to continue to write this. Questo Conte prima di quello che è successo dopo e che abbiamo sentito prima nel montaggio, quindi la vittoria del Chelsea di ieri. Saluto Paolo Ciarravano, la voce era la sua. Ciao, ciao Paolo. Ciao a tutti. Nella telecronaca su Sky della vittoria del Chelsea, ha vinto anche il Manchester City. Allora, noi andiamo in una settimana in cui ci saranno Roma, Chelsea, Napoli, Manchester City. Allora Paolo, se ci aiuti a capire come stanno le nostre avversarie. Allora, diciamo che il City sta un po' meno bene di quanto stesse forse 2 settimane fa, 10 giorni fa, ma sta comunque molto bene. Il Chelsea è una squadra che mi sembra convalescente, mi sembra una squadra che si sta alzando di livello, però insomma è a metà del guado, è a metà del processo, perché francamente la partita di ieri è un passo avanti rispetto alla vittoria contro il Watford, che è stata una vittoria eccellente dal punto di vista della classifica e della dimostrazione di compattezza del gruppo, perché qualcuno metteva anche in dubbio questa compattezza. Ma Conte ha detto bullshit, mi sembra evidente, no? Non necessita di traduzione quanto abbiamo sentito. No. È un inglese basico che tutti... Basico, che tutti... però abbiamo capito, problemi nel gruppo, bullshit, mi sembra tutto chiaro, no? Esatto. Scusate, sciocchezze. Però ecco, la partita di ieri è un passo avanti, ecco, sinceramente. Vinta di misura, peraltro. È la prestazione migliore rispetto a quella contro il Watford, perché il Chelsea ha vinto di misura, ma avrebbe potuto vincere largamente, ha tirato in porta una cosa come 16 volte. Morata si è divorato un paio di gol, soprattutto uno, e diciamo che la vittoria di misura sta stretta al Chelsea. La vittoria contro il Watford è una vittoria di quelle che ti possono far svoltare la stagione, perché forse non meritava di vincere il Chelsea, e che ti danno la dimostrazione di un gruppo coeso. Hazard ieri, fa strano dirlo perché siamo quasi a novembre, ha fatto il suo primo gol in campionato, sì, di questo campionato. Anche questo spiega tante cose. Io però vorrei chiederti se Conte ha ragione a essere così nervoso, perché lo è, diciamo quella di ieri, poi dell'altro ieri è stata l'esplosione più clamorosa, ma in realtà c'è un nervosismo che serpeggia dall'inizio stagione. Sì, allora il nervosismo lo ha forse seminato in parte involontariamente Conte con una estate molto lunga di tira e molla, non tanto sulla permanenza o meno, quanto sulla costruzione della squadra. È chiaro che lui volesse altri rinforzi, aveva scelto Lukaku come erede di Diego Costa. Lukaku gioca a Old Trafford per la gioia di Mourinho, anzi addirittura vi dirò di più, l'aveva scelto 2 estati fa, cioè alla prima estate appena arrivato sulla panchina del Chelsea, lì disse no all'Everton e poi il Chelsea se l'è fatto soffiare. dal Manchester United. Voleva tenere Matic e quantomeno non voleva darlo una diretta concorrente, guarda caso torna ancora Mourinho. Quello ha creato un po' di tensioni, la stampa inglese, almeno la parte più scandalistica, poi ha romanzato sopra magari anche a tante altre cose che in realtà sono solo delle speculazioni. Metteteci dentro qualche sconfitta di troppo e il quadro è questo. Però non dimentichiamo che Conte è abituatissimo a gestire questa situazione. L'anno scorso, dopo la sconfitta contro l'Arsenal, quella dove lui poi cambiò modulo, no? Passò al 3-4-3 e fece il filotto di 13 vittorie, e divenne l'allenatore il cui esonero era il quotato più basso. Mm-hmm. Sappiamo che i bookmakers sono un barometro importante di quello che succede in Inghilterra, quindi voglio dire, lui ha saputo navigare in mari agitati e poi ha tirato fuori quella stagione. Io credo che lui sia in grado anche di farlo quest'anno. Sì, tanto la Champions è determinante, La partita di Roma è un bivio importante. Il Chelsea si è messo bene vincendo a Madrid, però quello è un girone che non ha ancora deciso chi tra Roma, Atletico e Chelsea sia destinata a scivolare dietro in Europa League. E credo che per Conte ci sia forse anche la difficoltà di capire come affrontare la trasferta di Roma, se andare per vincere e chiuderla, se non rischiare, perché poi dentro resta italiano, Paolo? No, ma allora sicuramente era e resta italiano, però io credo che lui abbia fondamentalmente un grande dubbio legato alle condizioni di Kanté proprio in queste ore. Stia decidendo se rischiarlo o no, perché Kanté è un uomo insostituibile. Io credo che per come sta giocando la Roma adesso, per la solidità che ha fatto vedere la squadra di Francesco, secondo me il Chelsea senza Kanté è un Chelsea più perforabile, perché la Roma adesso concede poco e prova a colpire quando si creano gli spazi. Quando giochi con Fabregas centrale del centrocampo rischi un po' di più del dovuto, un po' di più di quello che vuole Conte. Quindi io credo che il recupero di Kanté sia fondamentale per il Chelsea. Poi è vero che la situazione è abbastanza scivolosa nel girone, per cui poi io credo che Conte debba comunque scegliere di giocare al meglio questa partita. Senza la partita di Madrid mi sembra un buon riferimento, cioè, lui certo. È andato lì per vincere la partita, certo, non l'ha vinta per caso, anche se l'ha vinta al 92esimo, al 93esimo. Esatto. Grazie Paolo. Ciao a voi. Grazie Paolo Ciaravano, che continueremo a sentire su Sky per le partite della Premier League. È arrivato il momento dei motori di Dovizioso, ma anche di Franco Morbidelli. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Pennella come un Raffaello, pennella come un Giotto, entra, vai e chiudila e spalanca felice. Andiamo a Valencia. Dermodovic e andiamo a Valencia. Andiamo a Valencia a mangiare la paella pitturata di rosso. Dovice, doppietta Ducati, Dovizioso Lorenzo davanti a Zarco. Bello, ho dato uno strapotere Ducati oggi perché nell'acqua eravamo davvero forti. Tutti molto bravi, bisogna dirgli grazie oggi a Jorge Lorenzo. Dove? Ho sentito parlare di questa mappa. E tu ce l'hai sul cruscotto mappa? Però io non so niente di questa cosa perché non sono un pilota politico. Forse sarò anomalo, forse sarò anche stupido perché su queste cose non ci lavoro, non ci guardo. Non sono un pilota che va a cercare queste cose, non abbiamo fatto nessun meeting. Io ero ben concentrato a portare a casa i 25 punti in tutte le condizioni che potevamo trovare e sto weekend abbiamo lavorato da Dio. Mappatura 8, quel messaggio che dal box hanno spedito a Lorenzo, che era un secondo avanti a Dovizioso a 4-5 giri dalla fine. I maligni, ma nemmeno mappatura noi siamo politici, dicevano, insomma, era in gergo il messaggio per dire inventati qualcosa, ma fa passare il Dovi, che si può riaprire il mondiale almeno fino al 12 novembre. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Robin. Ciao, allora, ciao, riaprire ciao. Il mondiale almeno fino al 12 novembre significa che Marquez sarà campione del mondo se Dovizioso non vince, con qualsiasi risultato, anche restando a casa. Se Dovizioso non vince, Marquez è campione anche se viene qui da noi il 12 novembre e non va a Valencia. Oppure se Dovizioso vince e Marquez arriva almeno undicesimo, dal dodicesimo in giù perde. No, se arriva a dodicesimo vince Dovizioso perché avrebbe 7 vittorie più contro gara, 6. Sì. E quindi Marquez deve arrivare almeno undicesimo. Siamo attaccati a un filo, Roberto. Ma questa è una speranza che nelle corse bisogna avere, perché fino alla fine la bandiera scacchi. Però è vero che comunque il mondiale lo può perdere, Marquez, come abbiamo già detto. Oggi si è accontentato, forse era la cosa più difficile, perché in quella situazione, in quella gara, con quelle condizioni di aderenza, e anche se avesse attaccato Zarco per finire terzo, poco cambiava, perché praticamente arrivava con 24 punti, e, cioè con 21, con pochi punti più di quello che sono attuali. No, il Dovi, la Ducati, Lorenzo, grande gara. Io quello che dico è che Lorenzo comunque l'avrebbe fatto passare, perché è chiaro che c'è una strategia. Io non credo quando il Dovi, anche se lui è onestissimo, dice non sono politico, però quando dice non abbiamo fatto un meeting riguardo a questo, mi sembra impossibile, perché è normale strategia. Sarebbe da licenziare da linea. Sarebbe da licenziare in tronco Lorenzo, non esiste. Non esiste proprio, infatti quando poi gli hanno detto se fosse arrivato primo Lorenzo, lui ha replicato ci sarebbe stato un problema, le cose non sarebbero andate come dovevano andare, ed è così, è normale. No, quello che io dico è che Lorenzo col suo orgoglio, con questa vittoria che non è riuscito a prendere, l'avrebbe fatto passare in modo diverso, cioè conoscendolo fino all'ultimo sarebbe stato davanti e poi le ultime curve lo avrebbe fatto passare, però in modo plateale, cioè rimarcando il fatto che, e invece gli è scappato l'avantreno e quello è stato l'episodio in cui Dovizioso l'ha infilato e poi ha tenuto il passo. Secondo me nella testa Lorenzo aveva un'altra strategia, non quella, però è andata così, bene sia, alla fine è sempre stato quasi naturale questo passaggio, e comunque non si può togliere nulla al Dovi, che è rimasto concentrato, ha fatto una bella gara, è andato forte sia sull'asciutto sia sul bagnato nelle prove, cioè la Ducati oggi era la moto più veloce, non c'era una Comunque io continuo a vederla così, abbiamo goduto anche oggi tantissimo a Valencia, insomma saremo lì attaccati a qualunque cosa, però io continuo a pensare che oggi sia il giorno in cui Marquez ha vinto il mondiale, perché non ce lo vedo uscire alla sua gara, poi possiamo dire nel corso di qualunque cosa eccetera eccetera, non ce lo vedo. È vero, però nelle corse veramente tutto può succedere. Ti ricordi Hayden e Valentino nel 2000, cos'era? Nel 2006. Esatto, 2006. Perché tra l'altro Valencia è una pista molto piccola, è un toboga, cioè i contatti, i sorpassi sono difficili, cioè è nella mischia, si è tutti lì, il contatto magari c'è qualche inimicizia, qualche conto da regolare, Valentino potrebbe essere la cosa. Ma perché parli di Valentino Rossi? Io non stavo alludendo a Valentino Rossi. Secondo me no. Vabbè, no. Ripeto, può solo perderlo. Sì, assolutamente. Però nelle corse, sai, bisogna sempre provarci. Fa bene la Ducati, fa bene Andrea Dovizioso provarci, perché nelle corse è così, e mai dire mai. È ovvio che Marquez il mondiale ce l'ha in pugno. Comunque, tirato una riga dopo Valencia, vada come vada, io spero per Ducati, perché se lo meriterebbe anche per Dovizioso. Però se dovesse vincerlo Marquez, non possiamo dirgli nulla. Cioè, assolutamente. Non ha rubato non nulla quest'anno. Fatemi sentire Franco Morbidelli, abbiamo 2 minuti che sono pochi, ma so che ci torneremo in settimana per un campione del mondo. Questa mattina mi sono svegliato ed ero già campione del mondo, perché Tom non avrebbe corso, però per me ancora non lo ero, e lo sarei stato solo dopo la bandiera a scacchi. Stiamo facendo un pezzettino di storia, e è un onore, è bellissimo e non so che altro dire. Allora, gli ultimi titoli italiani, 2009 Valentino Rossi nella MotoGP, questo è l'ultimo titolo in assoluto, oppure Marco Simoncelli 2008 nell'allora 2,50. Oggi Franco Morbidelli, campione del mondo della Moto2, il paragone con quei due lì regge? Con Valentino no. Con Vale sì. E poi l'altro è Marco Simoncelli, l'altro nome insomma. Sì, ma erano comunque epoche diverse, città diverse, tipologie di moto diverse, cioè, secondo me è un altro film. Ogni pilota vive la sua stagione, ogni generazione, quindi secondo me speriamo in questo Morbidelli, non voglio dire che non sia all'altezza, ma lo vedremo già l'anno prossimo perché sarà una rookie nel MotoGP. E non dimentichiamoci Giovanni anche Fenati, perché alla fine ha fatto secondo in Moto3. Quindi questa stagione non è proprio da buttare via, perché abbiamo un pilota italiano secondo in Moto3, un campione del mondo in Moto2 e incrociamo le dita, speriamo, e chissà, però comunque Dovizioso è stato protagonista, almeno fino ad oggi come numero di gare, assolutamente. Quindi una stagione non da buttare, Italia risponde alla Spagna, diciamo. Ma intanto così. I nostri amici da casa non sono politici, stanno arrivando i messaggi, Valentino deve tirare giù Marquez, ragazzi, cerchiamo di essere sportivi. No, assolutamente no, ma io penso che neanche Vale ce l'abbia nella testa, perché è un pilota, appunto, e i piloti in queste condizioni qualcuno ha fatto diverso. Beh, dai, però ci fermiamo qui, tanto c'è tempo fino al 12 novembre per parlarne. Grazie Roberto, alla prossima. Ciao, Giovanni. Ciao ragazzi. Ciao, a me non è passata, quella roba là di 2 anni fa. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Roberta Frisani, che si sono alternati in regia. Tutti convocati torna domani dopo il GR delle 14 con Carlo Genta per Luigi Pardo, e tutti convocati weekend invece torna domenica regolarmente in diretta dalle 17. Ciao, ci risentiamo. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!